Tu Borg, solo tu mi turbi sempre più. Tu Borg, tu Borg, la la. Sbuffate! Sbuffate! Musica spazzatura. Formaggio. Thank you.